Indi seguì un silenzio alquanto prolungato. Un uomo leggeva a pezzi bocconi un giornale della sera macchiato di caffè, un altro la cartolina con gli indigeni Chosa De, un altro il foglio di congedo del marinaio. Mister Bloom, per quanto lo riguardava personalmente, stava meditando in un accesso di pensierosità. Si sovveniva nel modo più vivace, come fosse ieri, di quando, quasi una ventina di anni prima, aveva avuto luogo l'evenienza a cui s'era alluso, quando ai giorni delle sommosse dei contadini la cosa era piombata come un fulmine, parlando per immagini, sul mondo civile, attorno all'80, per essere più precisi, l'81, quando aveva appena 15 anni. Dico, capo, interloquì il marinaio, mi renda un po' quei fogli. Accontentato che fu, egli aggranfiò i fogli con una zampata. Ha visto la rocca di Gibilterra? Si informò Mr. Bloom. Il marinaio fece una smorfia nel masticare, in un modo che si poteva interpretare come sì, certo, oppure no. Ah, avete fatto scalo anche lì, disse Mr. Bloom, punta d'Europa, supponendo che così fosse. Nella speranza che quel pirata potesse grazie a qualche reminiscenza, ma non ne cavò nulla, limitandosi quello a lanciare un getto di saliva nella segatura e a scuotere la testa con una sorta di pigro disprezzo. E in che anno circa? Interpellò Mr. Bloom. Si ricorda delle navi? Il nostro soi-disant marinaio seguitò a masticare gravemente, famelicamente, prima di dar risposta. Sono stanco. Di tutte ste rocce in mezzo al mare, disse, e di navi e di battelli, carne salata dal primo giorno all'ultimo. Evidentemente stanco, tacque. L'interrogante, ben vedendo che non avrebbe ricavato granché da quella vecchia volpe, si dette a fare una serie di vaghe considerazioni sulle enormi dimensioni della superficie acquea del globo terrestre. Basti dire che, come lo dimostrava uno sguardo fuggevole alla carta, essa ne copriva ben 3/4, ed egli si rendeva ben conto di che cosa significasse essere i dominatori delle onde. In più d'una occasione, una dozzina al minimo, vicino al North Bull ad Dollymount, egli aveva notato un annoso lupo di mare, evidentemente derelitto, abitualmente seduto vicino al mare, tutt'altro che aulente nei pressi del muraglione, in contemplazione del mare che lo contemplava a sua volta, sognando di altri boschi e nuovi pascoli, come canta quel tale da qualche parte, e ciò lo portava a domandarsi il perché. Probabilmente egli aveva cercato di svelare l'arcano per suo conto, sballottato da un antipodo all'altro, per non parlare del resto, e su e giù, beh, non proprio esattamente giù, tentando il destino. E le probabilità erano 20-0 che la cosa non fosse affatto un arcano. Ciò non di meno, senza entrare nelle minuzie della questione, restava eloquente il fatto che il mare era là, in tutta la sua gloria, e che nel corso naturale degli eventi qualcuno doveva pur veleggiarvi sopra e gettare il guanto alla provvidenza, per quanto il tutto si risolvesse nel dimostrare che la gente fa in modo di appioppare altrui gli oneri di quel genere come l'idea dell'inferno, le lotterie e le assicurazioni, che venivano trattate esattamente allo stesso modo, cosicché per questa ragione, se non per altre, la Domenica del Soccorso Marittimo era una nobilissima istituzione, alla quale il pubblico in generale, non importa di dove, dell'interno o delle coste, a seconda del caso, messo così a giorno della cosa, dovrebbe estendere la sua riconoscenza, e parimenti ai comandanti di porto e ai guardacoste, che devono issare le vele e prendere il mare in mezzo alla furia degli elementi, qual che sia la stagione, quando il dovere chiama. L'Irlanda si attende che ognuno con quel che segue, e qualche volta se la vedevano proprio brutta nella stagione invernale, per non parlare delle boe luminose, Kish e le altre, esposte al pericolo di capovolgersi in qualunque momento, virando attorno a una delle quali, una volta, lui e sua figlia erano incorsi in un mare notevolmente agitato, per non dire addirittura tempestoso. C'era un tale imbarcato con me sul giramondo, proseguì il vecchio lupo. Giramondo anch'egli, che tornato sulla terraferma si è trovato un posticino tranquillo come cameriere di un signore a 6 sterline al mese. Sono suoi questi pantaloni. E mi ha dato anche un impermeabile e quel coltello. Mi piacerebbe quel lavoro. Barba e capelli. Non mi va di andare in giro per il mondo. Ora c'è mio figlio, Danny, che ha tagliato la corda per imbarcarsi. E sua madre l'aveva fatto assumere da un merciaio a Cork, dove avrebbe potuto fare i soldi facile. Quanti anni ha adesso? Fece un uditore che, sia detto per incidenza, visto di lato assomigliava lontanamente a Harry Campbell, il segretario comunale, lontano dalle aspre cure del suo ufficio. Naturalmente non lavato di fresco, con un abbigliamento misero e un forte sospetto di coloritura all'appendice nasale. Beh, rispose il marinaio con eloquio lento e perplesso. Mio figlio Danny ne dovrebbe avere circa 18, se ben ricordo. Al che il padre di famiglia di Skibbereen si spalancò con ambe le mani la camicia grigia, o comunque non linda, e prese a grattarsi furiosamente il petto su cui potevasi vedere un'immagine tatuata in inchiostro di chin azzurro, intesa a rappresentare un'ancora. C'erano dei gran pidocchi in quella cuccetta Bridgewater, rilevò. C'erano e come. Bisogna che mi dia una bella lavata uno di questi giorni. Ce l'ho con quelli neri io. Non li posso sopportare, quei fottuti. Ti succhiano il sangue, ti succhiano. Vedendo che tutti gli guardavano il petto, compiacentemente, spalancò di più la camicia, cosicché al di sopra del riveritissimo simbolo della speme e del riposo di un marinaio, essi ebbero agio di vedere il numero 16 e un profilo di giovanotto dall'aspetto piuttosto accigliato. Tatuaggio, spiegò l'esibente. Me lo sono fatto fare quando la bonaccia ci aveva bloccati al largo di Odessa, nel Mar Nero, sotto il capitano Dalton. L'autore è un tale che si chiamava Antonio. C'è anche lui, guardate, un greco. Hai sentito molto male mentre te lo facevano? Chiese uno al marinaio. Ma il brav'uomo era affaccendato a dare la caccia intorno al suo "Vatte la pesca", strizzando, oppure "Guardate qua", disse indicando Antonio. "Eccolo che manda al diavolo il capitano in seconda. Ed eccolo adesso", aggiunse. "Sempre lui", tirando la pelle con le dita, un trucco speciale evidentemente, "che ride mentre gli raccontano qualche storia." Effettivamente non si poteva negare che il volto livido del giovanotto a nome Antonio avesse proprio l'aria di chi è forzato a ridere, e il curioso effetto risvegliò l'ammirazione incondizionata di tutti, incluso Scorticacapre, che questa volta s'era sporto in avanti. Eh sì, sospirò il marinaio, abbassando lo sguardo sul suo petto virile. Anche lui se n'è andato. Se lo so mangiato i pesci cani. Eh sì. Lasciò andare la pelle di modo che il profilo riprese la normale espressione di prima. Bel lavorino, davvero, disse il portuale numero 1. E il numero che ci sta a fare? Si informò lo sfaccendato numero 2. Mangiato vivo? Chiese un terzo al marinaio. Eh sì, Sospirò di nuovo quest'ultimo messere, più allegramente questa volta, con una sorta di sorriso abbozzato, ma di breve durata, in direzione dell'interrogante circa il numero. Mangiato, era un greco. E poi aggiunse con un umorismo piuttosto da forca, ove si consideri la presunta tragica fine. È peggiore del vecchio Antonio. Mi ha lasciato nel guaionio. Il volto d'una passeggiatrice, vitreo e smarrito, sotto un cappello di paglia nero, sbirciò di sbieco dalla porta del rifugio nel palese intento di fare una piccola ricognizione a suo beneficio e tirare altra acqua al suo mulino. Mr. Bloom, non sapendo più da qual parte guardare, si volse all'istante, scombussolato ma esteriormente calmo, e raccogliendo dalla tavola il foglio rosa dell'organo di Abbey Street, che il fiaccheraio, se tale egli era, aveva messo da parte, lo prese e guardò il rosa del foglio. Ma perché poi rosa? La ragione del gesto era che aveva riconosciuto all'istante, dietro la porta, il volto di cui aveva colto una visione fugace quel pomeriggio sulla riva Ormond, cioè a dire la femmina parzialmente idiota del vicolo, la quale sapeva che la signora dal vestito marrone sta con te, Mrs. B., e chiedeva se le faceva fare il bucato. Perché poi bucato, che era termine alquanto vago, il bucato. Però la sincerità lo obbligava ad ammettere di aver lui stesso lavato la biancheria intima sporca di sua moglie al tempo di Holles Street. E le donne dicevano di volerlo fare, e lo facevano in verità, per gli analoghi indumenti maschili con le iniziali in inchiostro di Beaulieu e Draper, quelli di lei vogliamo dire, naturalmente se lo amavano, è sottinteso. Chi mi ama, ama anche la mia camicia sporca. Pertanto, per il momento, essendo sui carboni ardenti, egli agognava più di qualsiasi altra cosa di non averla davanti agli occhi ed ebbe a sentirsi veramente sollevato allorché il tenutario, con un rozzo cenno, fece intendere alla donna di doversi recare altrove. Di sopra al Living Telegraph, egli colse appena una visione fugace del suo volto di là della porta, con una specie di vitreo ghigno demente che dimostrava come la donna non fosse del tutto in sé, mentre considerava evidentemente divertita il gruppo degli spettatori attorno al petto nautico di padron Murphy, e poi scomparve. «La cannoniera», disse il tenutario. «È al di sopra della mia comprensione», confidò Mr. Bloom a Steven. «Dal punto di vista medico, si intende, il capire come una miserabile creatura come quella là, che esce di quarantena tra sudante e infezione, possa avere la faccia di sollecitare altrui, o che un uomo, il quale non abbia perso il ben dell'intelletto, se ha un po' a cuore la sua salute. Infelice creatura! Naturalmente suppongo che in ultima analisi sia un uomo il responsabile del suo stato odierno, però, quale che sia la causa, Steven non l'aveva osservata e si strinse nelle spalle limitandosi a rilevare. In questo paese la gente vende ben più di quello che abbia mai posseduto e fa affari d'oro. Non paventate di coloro che vendono il corpo, ma non hanno il potere di comprare l'anima. Quella è una cattiva commerciante. Compra caro e rivende a basso prezzo. Il più anziano, che pur non era per niente una zitellona o una fanciulla pudibonda, disse che era poco meno di uno scandalo sfacciato, al quale dovrebbe si por fine Stanter. Il vedere che donne di quello stampo, lungi da noi ogni schizzinosaggine zitellesca in proposito, un male d'altronde necessario, non fossero fornite di licenza e soggette a controllo medico delle autorità competenti, misura di cui egli poteva veracemente asserire essere stato in qualità di pater familias irriducibile sostenitore fin da principio. Chiunque imprendesse a sostenere una politica del genere, diceva, e sottomettesse compiutamente la cosa alla pubblica opinione, sarebbe per l'eternità un benefattore di tutti gli interessati.